sguardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco. In questa stanza? Certo, a noi la cere generosa il padrone. Io sarebbe se la sgoma. E la ragione? La ragione non qui. Perché non puoi far che passi un po' qui? Perché non voglio. Sei tu mio servono. Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo. Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potriasi star meglio in altro loco.